Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Buonasera e benvenuti a Smart City. Continuiamo a parlare delle opzioni al vaglio degli scienziati per aumentare l'assorbimento di CO2 atmosferica allo scopo, come sappiamo, di contrastare il cambiamento climatico. Bisogna sapere che insieme agli oceani il più grande serbatoio di carbonio sulla faccia della Terra è il suolo. Considerate che nel primo metro di suolo è contenuta tre volte la quantità di carbonio sotto forma di CO2 contenuta in tutta l'atmosfera terrestre. Il suolo si è formato nel corso di centinaia di milioni di anni grazie alla combinazione di forze naturali, quali per esempio l'erosione, e dell'attività degli organismi viventi che hanno fissato nel terreno proprio la CO2 presente nell'atmosfera. Ma si può fare di più, si può aiutare il suolo ad accumulare più carbonio di quanto non farebbe da solo. E questo il concetto alla base dell'approccio di cui andremo a parlare questa sera con l'aiuto di David Chiaromonti, professore di Energy Economics del Politecnico di Torino e presidente del consorzio di ricerca Record. Buonasera, buonasera Chiaromonti. Buonasera. Allora, parola chiave per capire di cosa stiamo parlando è biochar. Ci ricordi per cominciare che cos'è e come si ottiene? Beh, volendo dare una visione molto semplice e immediata del prodotto, potete pensare al carbone che utilizzate per cuocere la bistecca. Il carbone vegetale. Per le verdure grigliate. È carbone vegetale prodotto con delle modalità che incontrano meglio quelle che sono le sue funzionalità nel suolo, però sostanzialmente è carbonio ottenuto carbonizzando sostanze vegetali residuali prevalentemente, legnose, agricole, di vario genere, insomma. Ecco, come si ottiene tipicamente questo biochar, che spesso si presenta sotto forma di pellet, per capirsi? Il processo è ben noto, ma da tantissimo tempo. La tecnica principale è quella della pirolisi, cioè riscaldiamo in assenza d'ossigeno un pezzo di legno o altre materie di tipo anche erbaceo. Questo fa sì che la parte volatile del pezzo di legno, della biomassa, si converta in un gas combustibile e l'altra parte rimanga carbonizzata, come diciamo noi, un termine specifico è in modo recalcitrante, cioè questo carbonio diventa stabile per centinaia di anni, taluni dicono anche migliaia, dipende come è stato prodotto, e quindi è carbonio che è veramente fissato in maniera permanente e che poi costituisce una matrice idonea a tante funzioni nel suolo. Contestualmente abbiamo questa quota parte di energia rinnovabile ad alta temperatura che rimane disponibile per tanti usi. Ecco, l'idea è, se questo carbone viene inserito in suoli, in particolare nei suoli più difficili, carbone, noi possiamo avere una superficie di 150 metri quadri, per dare un'idea, quindi una superficie estremamente elevata, è una grande spugna che assorbe l'umidità, che assorbe i nutrienti, che costituisce un ambiente all'interno del quale i microrganismi del suolo, che è un microbioma estremamente complesso e poi è la ricchezza che c'è nel suolo, la sua fertilità dipende dalla popolazione dei microrganismi che in maniera sinergica agiscono nel suolo, si insediano all'interno di queste strutture dove trovano ambiente, umidità, trovano tante funzioni, ovviamente combinandosi con carbonio organico, ad esempio il compost prodotto dalla frazione organica dei rifiuti. Ecco, quindi il giochino è quello di coltivare, se ho ben capito, delle biomasse che fungono da sequestratori, tra l'altro, della CO2 atmosferica. Poi se ne ricava un po' di energia e un po' di questo biochar che viene utilizzato non solo come modo di sequestrare carbonio, ma anche per migliorare la produttività dei suoli. Possiamo dirla così? Sì, la biomassa può essere coltivata, ma può essere assolutamente anche residuale rispetto agli impieghi principali, ad esempio colture legnose, abbiamo tutta una destinazione ad esempio all'edilizia, al legno da costruzione, abbiamo tutta una parte residuale che invece può efficacemente essere convertita in questo tipo di prodotti, lo stesso residui agricoli. Abbiamo circa 8 milioni e mezzo di ettari in via di marginalizzazione e desertificazione, dati GRC, documentati da, sì, da tanto tempo. Nell'area mediterranea, no? L'area mediterranea, esatto, l'area mediterranea è un'area critica. Quindi noi andiamo sostanzialmente a rivalorizzare, invece che semplicemente iniettare nel suolo, questa CO2 che è stata convertita in carbone, in qualcosa di utile che sostiene l'agricoltura e soprattutto aiuta l'agricoltura a essere più sostenibile. Perché più i terreni sono poveri, più si fa uso di sostanze chimiche, più questi fertilizzanti penetrano nelle falde, vengono... Chiaro, chiaro. Qual è il potenziale di sequestro di anidride carbonica, di carbonio atmosferico? C'è anche un articolo interessante su Nature proprio su questo tema. Qual è il potenziale di sequestro di carbonio atmosferico seguendo questa strada? Proprio l'articolo che stava citando indica in 5,5 miliardi di tonnellate l'anno di sequestro. Che è tantissimo. È chiaro che abbiamo... Sì, abbiamo un potenziale enorme. Dal punto di vista economico, che tipo di considerazioni possiamo fare su questo modello? Beh, è proprio il tema su cui stiamo lavorando. È evidente che tutto il tema dell'energia, della decarbonizzazione, è un tema policy driven. Quello che noi riteniamo è che questo è un carbonio che può essere misurato con certezza, sappiamo le funzioni che fa e viene stoccato nel suolo. Quindi dovrebbe avere un riconoscimento come tante altre filiere relative alla decarbonizzazione e quindi creare un modello di business. La cosa estremamente affascinante di questo modello di business è che può essere ad esempio connesso alla digestione aerobica, alla produzione di biometano o alla filiera del compostaggio e la valorizzazione delle frazioni organiche dei rifiuti. È sinergico, sono complementari queste due filiere. Per cui possiamo adattarne la scala alle condizioni locali, quindi è un altro grosso beneficio, non dobbiamo fare necessariamente impianti enormi. E l'ultimo punto è reiniettiamo i capitali nell'economia reale locale, perché ci sono gli operatori gli operatori agricoli, gli operatori forestali, ci sono tutte le aziende che realizzano manufatti metalmeccanici e quindi che sono in grado di fornire i componenti, per cui è economia reale che noi mettiamo in movimento, andando a supportare la nostra agricoltura. Grazie David Chiaramonti. Buonasera. Bene, abbiamo concluso cari ascoltatori, appuntamento a domani.